Ciao compas di Radio Ondarossa, da Città del Messico con molta emozione vi vogliamo condividere un'azione storica per il movimento femminista in Messico che lo scorso giovedì 3 settembre familiari, madri di vittime di femminicidio, di desaparición forzada e violenze maciste così come collettivi femministi hanno occupato permanentemente le installazioni della Commissione Nazionale dei Diritti Umani, con sede al centro della capitale, a Città del Messico. La occupazione delle installazioni è iniziata dopo una riunione delle familiari delle vittime con la presidenta della Commissione Nazionale dei Diritti Umani, Rosario Piedra Ibarra, dialogo che avviene dopo mesi, per alcuni anni di pressione, ma come è comune in questo paese e in tanti, le istituzioni invece di dare una risposta alla ricerca di giustizia e schiarimento della verità, rinforzano la violenza patriarcale istituzionale. Al non avere nessuna risposta da parte della presidenta della commissione, una delle madri si è legata a una delle sedie, insieme ad altre si sono negate a uscire dalle installazioni della sala riunione fino a che non si ascoltino le loro domande di giustizia. Così come se ne cominciano ad andare i lavoratori e le lavoratrici delle installazioni e loro rimangono dentro e chiamano e chiedono l'appoggio della rete Ni Una Menos Messico e di altre collettività femministe e assieme occupano lo spazio, facendolo diventare dal primo momento, dal primo giorno, la Occupa Casa Refugio Ni Una Menos, così la chiamano, aprendola a tutte le vittime di violenza maciste, ai familiari, alle familiari e a tutte le compagne. Dal primo momento pure ricevono donazioni che fanno arrivare per tutto il Messico alle famiglie, agli orfani delle vittime di femminicidio e a tutte le compas che nella lotta contro la violenza macista e femminicidia ne hanno bisogno. Mentre qua la commissione pagavano uno chef privato, le vittime e le familiari dormivano per strada provando a farsi ascoltare dalla commissione. Per questo lo abbiamo trasformato in un rifugio. Ci dice, mi ha detto una delle madri che ha occupato lo spazio. La Casa Refugio è un'azione storica che diviene dalla lotta dei familiari così come delle vittime e della radicalizzazione del movimento femminista in Messico e in tutta America Latina in questi anni. Ma bisogna pure dire che è dal 1993 che le madri denunciano un'ondata di violenza femminicidia che l'impunità di Stato ha lasciato crescere fino ad arrivare ai scandalosi numeri di più di 10 femminicidi al giorno in questo paese. La forza delle madri e delle compagne è una forza piena di dolore scarnato che si abbraccia nelle giovanissime compagne femministe che stanno mano a mano con loro e che è un'esperienza meravigliosa da guardare e da accompagnare. È un'azione così forte che si comincia a replicare, no? In questa settimana, a replicare in appoggio per tutto il paese, con occupazioni simboliche di tutte le sedi in diversi stati, a Veracruz, a Michoacán, a Puebla, in Chiapas, Aguascalientes, in tantissimi stati del paese. Il giovedì 10 settembre le compagne familiari dello Stato del Messico, nella periferia della città e lo Stato accanto alla città del Messico, decidono di occupare la sede della Commissione dei Diritti Umani dello Stato, in uno dei municipi che si chiama Ecatepec, che è uno dei più femminicidi del paese, con le stesse domande di giustizia e di farsi ascoltare, di ascoltare le voci di tutte le compagne che lottano per la giustizia in Messico, no? L'occupazione della sede ad Ecatepec dopo poche ore è stata brutalmente sgomberata, con una violenza tremenda dalle persone che poi si è scoperto che erano poliziotti, ma che in quel momento erano vestiti tutti di nero, che sono arrivati senza identificarsi e hanno picchiato alle compagne che erano con i loro figli, bambini piccoli che hanno pure ricevuto delle botte, una compagna incinta, le hanno minacciato dicendole che l'avrebbero desaparecido, che l'avrebbero assassinate. È stato veramente forte perché per tante ore non si sapeva dove avessero portato a delle compagne, che poi si è scoperto che stavano in un altro municipio dello Stato e alle 10 del mattino si è dichiarato che le compagne stavano in questo commissariato a Tizapán. La collettiva Manada Periferia, che era una delle collettive che aveva occupato le installazioni, accusa direttamente della brutalità repressiva che hanno subito al governatore dello Stato, Alfredo Del Mazo, che subito si è lavato le mani dicendo che non era nemmeno al corrente dell'occupazione delle installazioni, e soprattutto a Fernando Vilchis, che è il sindaco di Ecatepec, che questi personaggi che sono arrivati a accompagnare le compagne hanno detto, l'unica cosa che hanno detto è che Fernando Vilchis era quello che li aveva mandato a sgomberare in quella maniera violentissima. E in risposta alla violenza per parte delle istituzioni governative, che in maniera sistemica nullifica la voce delle donne che esigono giustizia, che picchia come la scorsa notte alle vittime, alle madri delle vittime, le compagne hanno deciso di tornare a occupare le installazioni ad Ecatepec. Chiamano alle vittime, ai familiari, a tutte le donne, a tutti i collettivi, al popolo in generale, a azionare in tutte le maniere possibili contro la violenza che uccide in questo paese e che picchia, come è successo la scorsa notte. Le risposte, per vedere com'è la violenza istituzionale qua, le risposte del presidente López Obrador alle azioni delle compagne, soprattutto all'azione di occupare la CNDH a Città del Messico, rimarcano la violenza strutturale che esiste in tutte le istanze di governo fino alla sua, no? Obrador chiama alle madri e alle compagne estremisti radicali, come ha fatto con altri compagni che difendono la vita, che difendono il territorio contro i megaprogettos, come lo ha fatto con Samir Flores, nostro compagno che è stato assassinato per difendere il suo territorio contro i megaprogettos. Dice che le compagne non hanno detto cosa vogliono e questo le fa diventare sospettose, quando dal primo momento le compas hanno fatto pubblico un ampissimo comunicato dove ci sono più di 36 punti fra i quali evitare la revittimizzazione delle vittime di abuso, rimuovere dai loro carichi ai giudici fiscali e magistrati pedofili e pederasti, cambiare il sistema che impone persecuzione e criminalizzazione verso le donne che denunciano, una serie di punti importantissimi che hanno fatto pubblici, che hanno fatto arrivare alle mani perfino della segretaria di governazione. E per queste risposte, come ha fatto il presidente, come ha fatto Del Mazo dicendo che non era al corrente di niente, come ha fatto la presidenta della commissione Rosario Piedra, le compagne continueranno a prendere tutte le installazioni che siano necessarie e noi continueremo a appoggiarle in tutte le azioni che siano necessarie. Le compagne della Occupa Casa Refugio Ni Una Menos e tutte le compagne con loro restiamo e resteremo lì fino a che non si faccia giustizia, fino a che le voci delle madri non siano ascoltate e accompagnate veramente. Chiamiamo ad allargare la lotta per tutto il paese, come sta succedendo, come vi dicevo prima, no? Che ci sono mostre di appoggio in tutti gli stati, in Michoacán, in Veracruz. Siamo molto emozionate per questo che sta succedendo. Crediamo che sia un momento storico per la lotta delle donne in Messico, ma anche in tutta America Latina e in tutto il mondo, no? Che la lotta delle donne è anche la lotta della vita. Vi mandiamo un forte saluto, compas di Radio Onda Rossa. Speriamo veramente che la casa rifugio cresca e rimanga come una lezione di dignità e forza. Hasta que la dignidad se haga costumbre. Un saludo.